La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. C'era una volta un re che disse alla sua serva: raccontami una favola. E la serva incominciò e disse: c'era una volta un re che disse alla sua serva: raccontami una favola. E la serva incominciò. Questa è la prima volta di Daniele Silvestri, cantautore romano, classe 1968. Fa parte di quella generazione, assieme a Niccolò Fabi e Max Gazzè, di musicisti cresciuti tra locali in cui si suonava quasi per gioco. Un'amicizia, quella tra Gazzè, Silvestri e Fabi, che diventa anche il simbolo di una movida musicale romana degli anni 90. Quello che è successo in realtà è che poi nella pratica siamo stati molto di più accostati nelle rassegne stampa piuttosto che poi musica fatta realmente insieme. Negli ultimi 15 anni, forse proprio per sfuggire a quel luogo comune che ogni volta ci vedeva uno dopo l'altro, no? Silvestri, Fabio, un po' per timore abbiamo un po' evitato. Quindi facciamo presto, andiamo avanti, che la gente a casa ha voglia di altro. Allora andiamo a casa. Tre carriere separate, tre storie diverse unite da una buona causa. Cos'altro avete in comune con PD, PDL e Terzo Polo? Se volete rispondere, se no, no, eh? Anche no? Anche no. Bene. Daniele Silvestri, il ragazzo cresciuto tra locali romani ed ex compagni di liceo, è diventato un cantautore famoso. La sua prima volta è lontana, lo spirito di quelle serate però è sempre presente e si percepisce ogni volta che questo sodalizio si ricompone, qui in una trasmissione dalla Dandini. È un grande onore avere questi tre grandi artisti italiani uniti per noi questa sera in una super band. Ci onora non solo il fatto anche che avete scelto di fare adesso un pezzo che non è di nessuno dei tre, ma avete fatto una scelta particolare, avete scelto di fare una canzone che viene da un film, Capriccio all'italiana, un pezzo di Domenico Modugno. Perché questa scelta? Tra l'altro un pezzo con un testo di Pier Paolo Pasolini, che è una parte della risposta. In realtà è stato Max a suggerirlo, ma abbiamo aderito immediatamente, forse perché sono semplicemente due dei più grandi italiani che ci siano mai stati, uno un poeta strepitoso e un altro un artista incredibile, e quella canzone che hanno fatto in tanti è speciale. Noi vi ringraziamo di farla qui, è per la prima volta insieme. Certo. Ci proviamo. Che cosa sono le nuvole? Dagli spasimi, tu non fossi mai nata, tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo. Daniele Silvestri non è più un ragazzino che gioca a fare il musicista, è l'uomo che scrive le colonne sonore per il cinema d'autore, è il trentenne, unico a Sanremo, a portare temi come la condizione dei detenuti, ed è uno dei pochi che riesce a toccare il tema dell'omofobia facendo ballare l'intera comunità gay. Il suo debutto, tra i grandi, è dunque immediato. L'anno in cui esce il suo primo album è l'anno in cui riceve la targa Tenco. È un talento che in molti riconoscono. È il 1994. È un anno che, come dirà lo stesso Silvestri, segnerà l'inizio simbolico della sua carriera. anche se in realtà suonare e comporre fanno parte della vita di Daniele Silvestri già da molti anni. Sì, è l'anno in cui ho iniziato, poi in realtà faccio quasi fatica a ricordarmelo perché in realtà ho iniziato molto prima, però è il momento in cui in qualche modo mi sono affacciato realmente e qualcuno si è accorto che c'ero anch'io. Da lì sì, ne sono passati tanti di anni, ormai andiamo per i 18 e devo dire che per fortuna non me li sento né io né i ragazzi con cui sono, li chiamo ancora ragazzi ma cominciamo a essere tutti attempati e sono più o meno sempre gli stessi con cui sono da tanti anni. Cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale ma il tuo è troppo bello. Il successo del grande pubblico arriva nel 95, un anno dopo il debutto. L'anno dopo ancora parteciperà al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con L'Uomo col Megafono e riceverà il premio Volare della critica per il miglior testo letterario. Quella di Silvestri è una carriera molto bella, piace tanto alla critica e piace molto anche al pubblico. Sarà per quel suo modo di fare, sempre così diretto e semplice. È un ragazzo che ama il teatro, la drammaturgia, che viene da studi classici, suona musica apparentemente lieve, ma con testi spesso duri e molto impegnati. Qui, in una vecchia intervista Rai. Evidentemente dal mestiere che uno fa, insomma, nella vita bisognerebbe comunque, credo, guardare al mondo intorno con un certo tipo di attenzione e anche di preoccupazione se serve. Anche perché poi l'apporto del singolo non è così minimale, spesso diventa fondamentale. Se poi si fa un lavoro in cui si hanno anche delle responsabilità e dei privilegi, responsabili e privilegi vanno considerati, vanno utilizzati nella maniera migliore possibile. Non penso di averlo fatto sempre, probabilmente in qualche caso ho anche ecceduto magari nel... Però appunto ho sempre considerato fosse fondamentale la sincerità da una parte e l'impegno inteso come tentativo di dare un apporto. Il teatro è realmente, più che il cinema, è stato ed è un amore profondo, quasi come quello per la musica, vorrei dire perfino di più, in parte perché anche ho sempre scritto, anche quando ho scritto canzoni pensandole per un disco, ho sempre scritto immaginandomi come minimo un tessuto drammaturgico, se non proprio un film nella mia testa, quindi ho sempre unito le due cose, anche solo dentro di me. I primi lavori nella mia vita che ho fatto, pagati, retribuiti, quando avevo 16 anni, erano sonorizzazioni, colonne sonore, di piccole cose o di spettacoli teatrali. Peccato di non smettere mai. Il segreto di questa frase non è tanto musica, teatro, jazz, è l'importanza di avere una passione, di avere qualcosa che significa svegliarsi la mattina col sorriso perché hai un obiettivo, una voglia. E quello è la medicina da qualsiasi forma di stress o di depressione o di abbrutimento. E così, crescendo tra locali romani e letture impegnate, Silvestri si fa le ossa. Impara a descrivere l'amore. Impara a farsi carico di un impegno che diffonde con una strana e importante leggerezza. Si cresce, si cambia, cambia la società, cambiamo noi. Io anagraficamente non sono sicuramente lo stesso che scriveva, non so, le cose in comune ormai più di 16 anni fa. Però poi l'amore in fondo è più o meno sempre quella roba lì. Solo che è inesauribile, è una fonte inesauribile perché è inesauribile nella vita di tutti noi. Continua a essere inevitabilmente una delle cose che ci fa soffrire, dannare di più, ci fa urlare, ci fa piangere, ci fa ridere. E quindi continua a essere il tema che non si può lasciare da parte. Io poi personalmente non distingo neanche tanto quando scrivo canzoni tra appunto la dimensione magari più privata e quella più pubblica, tra quello che è impegno e quello che invece è sentimento e intimità. Non c'è un confine preciso, perché nella vita non c'è. Alla fine anche con la persona che ami ti ritrovi magari a guardare il mondo esterno e viceversa, dalla rabbia che magari ti viene o dalla gioia che ti viene da quello che succede fuori, qualcosa succede anche nel tuo rapporto di coppia o comunque nei tuoi sentimenti più intimi, quindi non c'è un vero confine mai. Nel 2007 la canzone Gino e l'Alfetta diventa la canzone simbolo del Gay Pride. Silvestri la canta sopra un'alfetta, sfilando per le vie di Roma, seguito da un corteo felice, allegro, fatto di uomini e donne segnati anche dal dolore di dover vivere in un paese, il nostro, l'Italia, dove ancora è molto forte l'omofobia. Sarà un manifesto per far riflettere tutti. Vado di fretta, vado di fretta, non ho più tempo, datemi retta, Gino mi aspetta, dentro un'alfetta, piena di muffa. La prima volta. Compagno attento, un padre gentile, Daniele Silvestri lentamente è cresciuto, non è più un ragazzino. Ora è un uomo che sfrutta la sua notorietà per dare visibilità a campagne di sensibilizzazione. Scrive testi che parlano di omosessualità, parla di diritti di detenuti e diventa testimonial di campagne contro la violenza sulle donne, un argomento sul quale torna sempre molto volentieri. Perché, intanto perché il tema mi sta a cuore, perché credo che sia un tema importante, perché di questa campagna mi piaceva in particolare il fatto che fossero gli uomini che parlano e si rivolgono ad altri uomini. Questo perché credo che sia uno dei temi centrali e dei motivi per cui è sacrosanto avere una giornata per parlarne, è proprio il fatto che forse c'è un atteggiamento di noi maschi probabilmente non adeguato, no? Anche perché le storie di violenza casalinghe avvengono spesso nel silenzio, quando non arrivano a conclusioni eclatanti, spesso possono procedere per intere vite senza che se ne parli o facendo magari finta di niente. Invece credo che sia fondamentale avere aperti occhi e orecchie, ascoltare e intervenire e magari cercare di aprire gli occhi a chi conduce spesso delle doppie vite, no? Ci sono persone, uomini abbastanza difficilmente sospettabili delle azioni, non sempre poi fisiche, no? Spesso la violenza è una violenza psicologica di cui invece si macchiano nel quotidiano dentro le mura domestiche. Ecco, in qualche modo si dovrebbe anche sfatare uno stereotipo per cui a compiere violenza sono sempre le classi meno abbienti, invece stiamo assistendo a una democratizzazione in qualche modo della violenza sulle donne negli ultimi anni. Eh sì, probabilmente sì. Oddio, bisogna anche dire che appunto in realtà quello che viene fuori spesso è solo la punta dell'iceberg, quindi anche fare una distinzione sociale anche nel passato non so quanto fosse poi realmente rispondente alla verità. È chiaro che nelle situazioni in cui c'è anche la povertà o comunque una difficoltà tendono di più ad esplodere ovviamente, quindi forse anche a risultare visibili all'esterno. Però insomma credo che sia una condizione che deriva da motivi e pecche tare culturali che vengono da lontano e che non credo abbiano attecchito un po' a tutti i livelli. Poi è evidente che dove c'è magari una preparazione anche proprio culturale diversa c'è qualche strumento in più per evitare, no, di cadere in questo tipo di schemi, di rapporti tra i sessi prevalentemente. Poi la violenza domestica è casalinga in qualche modo, è particolarmente atroce quando sono coinvolti, come spesso accade, anche dei figli, sia perché la ricevono, la vedono, la vivono, la fanno in qualche modo propria, perché poi tutte le realtà che non vengono spiegate o mostrate all'esterno, in realtà nei giovani, in quelli che crescono all'interno della famiglia, si in qualche modo devono trovare una risposta, no? E la risposta diventa in automatico, dentro casa si fa. Succede. Quindi un ripetersi poi nel futuro di quella stessa violenza? In qualche modo sì, anche in maniere a volte imprevedibili e impreviste, magari da distanza anche di anni. però tendono poi a riproporsi e insomma dire la frase la violenza genera violenza è banale, è retorica, ma purtroppo è vera e la genera in tanti modi diversi, nelle donne stesse la genera spesso come violenza contro se stesse o perché sono costrette o pensano di essere costrette al silenzio, il che è una parte della violenza che subiscono, ma poi diventa appunto un altro infliggersi delle violenze o anche in sensi ancora più drastici e più drammatici di questo. Spesso i motivi per cui le coppie vanno avanti negli anni, soprattutto quando ci sono dentro delle storie così atroci, stanno anche nella paura di voler prendere atto e soprattutto di denunciare all'esterno un fallimento, non solo che sta anche nell'errore, no? Nella scelta sbagliata, nel fatto che magari si accumulano anni di ingiustizie, di prevaricazioni, ripeto, non solo fisiche, ma ancora peggio spesso sono quelle psicologiche, quindi minacce, un stato di paura continua e eccetera. E, dicevo, non sono solo buoni motivi, perché forse c'entra anche il fatto che in generale è una parte della crisi che comunque si comincia a produrre i suoi effetti in tante cose e quindi spesso fa deflagrare i problemi all'interno delle famiglie, e dall'altra forse una condizione sociale in cui per certi versi siamo, adesso non voglio fare discorsi troppo complicati e poi non sono un sociologo, ma non c'è dubbio che in qualche modo la società ci spinge a una dimensione meno pubblica per certi versi, no? E modi e motivi per rimanere all'interno delle proprie case ce ne sono più che prima, anche comodità forse per certi versi per farlo, e però proprio per questo poi esplodono, ripeto, anche più facilmente dei problemi e delle cose, no? Quindi è un misto di cose, è un segnale non solo positivo, ripeto, l'aumentare le denunce, però vediamo nel lato positivo e facciamo in modo anche in queste giornate che altre donne trovino il coraggio, sentendo anche magari banalmente queste parole. È stato mai testimone di una violenza, cioè ha mai agito attivamente rispetto a una violenza? Mi è capitato quando ero un poco più che un ragazzino di trovarmi banalmente nella condizione di difendere una ragazzina molestata, ma in questo caso non è quel tipo di violenza di cui stiamo parlando adesso, che forse, ma anche questa per carità fa parte di un atteggiamento di così maschile verso l'altro sesso, che confonde l'attrazione con il possesso e il diritto maschile alla predominanza, che ha un sapore quasi tribale, ma purtroppo è anche quello ben diffuso e ben visibile. Però mi è capitato in tempi molto più recenti e perfino recentissimi di venire a conoscenza di storie anche non sospettabili dal di fuori, di famiglie e persone che mi sono vicine, quindi so di che si tratta anche per quello, insomma. E ha denunciato, ha aiutato in qualche modo o ha lasciato che le cose si sistemassero per conto proprio? Beh, qui il discorso è un po' più complesso, non è facile, anche aiutare non è facile, soprattutto quando conosci tutta una famiglia e magari non ci sono dei rapporti che durano da anni, però sì, qualcosa ho provato a fare, non solo io, non da solo, ma con le altre persone intorno, altre persone amiche, sia nel dare conforto e supporto alla donna in questione, ma in piccola parte anche cercando di far ragionare il marito. Ma spesso è molto difficile perché c'è una negazione totale di questa realtà, no? Verso l'esterno, no? E probabilmente anche verso l'interno. Cioè, credo che molti di questi uomini non accettano. Anche sentendoci parlare adesso non si riconoscerebbero in questa descrizione, perché forse perché in parte rimuovono, forse perché in parte pensano di avere un diritto o che ogni volta quel diritto si eserciti in ragione di qualche motivo valido, no? Come se ci fossero motivi validi per picchiare una donna. La prima volta termina qua. Vi ringrazio per averci seguito. L'appuntamento è per domenica prossima alle 13.30. Scriveteci all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Potete riascoltarci in podcast. Ciao a tutti da Cristina Carpinelli. Alle 8:15 di un mercoledì di agosto sto finalmente abbandonando questo posto. Dopo 30 anni carcerato all'Asinara, che vuoi che siano poche ore in una bara. Che in una bara in fondo non si sta poi male.